l'imposizione no, sta spiazzando non solo gli investimenti privati, cioè... anche gli investimenti, fammi dire, sociali. Il governo sta spiazzando il risparmio allocato a forme di welfare alternativa, sta tagliando le gambe alle forme alternative di stato sociale. I 18 miliardi non ci sono, e quindi noi vi faremo esempi di questo tipo tutte le volte. Poi continuiamo su questo, ma intanto ci interrompiamo. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Allora, eccoci tornati qua in studio con Oscar, Carlo Alberto, Canavale Maffè, Mario Seminario, Francesca Del Rosso. Siamo partiti oggi, questa terza puntata di Conte della Belva, da questa nuova legge sul cosiddetto divorzio breve. In realtà i tempi restano uguali, come abbiamo visto cambiano le procedure a seconda di alcune condizioni, Francesca. Sì, e poi appunto diciamo innanzitutto che praticamente questa riforma va a colpire o ad agevolare solamente circa il 10% delle persone che si separano, cioè quelle che non hanno figli e che non hanno grandi condizioni da discutere, quindi praticamente stiamo parlando di ragazzi che si sposano giovanissimi oppure di persone particolarmente anziane. Sì, è un, se fosse una norma gaussiana, nel senso che va a gestire le code estreme e quindi di fatto secondo me poco efficace alla fine, più ancora una volta una promessa di marketing anche nella denominazione, no? Breve no, posso dire anche che è una proposta secondo me profondamente illiberale. Bravo, c'è un punto che, fammela dire, Oscar, bravo. Una cosa liberale ogni bravo. Modulo me la lasci dire, non è possibile attribuire alla Procura della Repubblica, che è parte in causa in un regime liberale, una funzione di terzietà. Bravo, in questi casi, no? Bravo. No, la procura ha i suoi cavoli e faccia il mestiere della procura, cioè la pubblica accusa vada a scovare i criminali, ma non può essere chiamata in causa come terza parte indipendente, perché non lo è mai, non lo può essere per definizione costituzionale. Allora, questa è una posizione ufficiale dei costi della Belva. Noi vogliamo la separazione chiara tra pubblici ministeri e giudici. L'avete capito? Ecco, no, più chiara di così l'avremo mai, non l'avremo mai. Però insomma, ogni tanto va detto, il pubblico ministero ha un compito, il giudice terzo è un'altra cosa. Qui A, E, I, O, U e in fondo a me lo prendi sempre tu. Questa è la cosa della legge italiana. Scusate se faccio un po' di... Abbiamo un avvocato che ci chiama, Nicola da Milano? Sì, buongiorno Giannino, buongiorno. E abbia pietà per questi miei eccessi contro i pubblici ministeri, però sono sicuro che come avvocato forse un po' mi capisce. Prego Nicola, ci dica. Assolutamente, avete detto cose esattissime. Io faccio semplicemente notare nello spirito della trasmissione una cosa. Se andate a vedere il titolo dell'articolo 6, quello sulla negoziazione assistita, sì, parla chiaramente di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. Il testo della norma, comma 1, dice la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. Ora, se la matematica non è un'opinione, i commi sono due, mi spiegate per quale motivo hanno lasciato nel testo della norma, nel titolo del testo della norma, uno o più avvocati? Ve lo dico io, perché nell'originario testo si parlava di un avvocato e non di un avvocato per parte. Vabbè, allora, uno dei classici... non hanno neanche avuto la compiacenza di convertire. Allora, dico questo per dire che se lo spirito della trasmissione è quello di far capire se i costi aumenteranno o diminuiranno, esatto, lascio a voi la decisione, anche perché oggi due coniugi possono andare da un unico avvocato e separarsi consensualmente in tribunale. E invece così, saresti costretto ad averne due. È obbligatorio, mentre nel primo testo, quello che è stato poi modificato al passaggio al Senato, c'era scritto da un avvocato, poi si è scritto da almeno un avvocato per parte. Quindi di fatto aumentiamo i costi obbligatori anche per chi ha intenzioni pacificamente, serenamente di separarsi. Quindi lo Stato impone un balzello, fatemi dire, improprio, no? Semplicemente per una procedura burocratica che già prima, secondo me, tutto sommato funzionava. Ma quindi se avessero ridotto i tempi e lasciato le cose come prima, non era meglio? Io apprezzo il fatto che Nicola, che fa l'avvocato, ci sottolinei questa cosa, che diciamo in realtà quelli che rappresentano un po' corporativamente, una parte rilevante però del mondo forense sarebbero felici, no, di constatare il fatto che il Parlamento chissà come mai è così sensibile al fatto che i 270.000 avvocati trovano ovviamente raddoppiata la loro funzione, uno per parte. Invece grazie all'avvocato Nicola da Milano che insomma ci fa apprezzare. Ci fa notare questa cosa e soprattutto ci fa pensare che se ci dobbiamo separare probabilmente non ci avverremo di questa fantomatica negoziazione assistita, andremo tranquillamente per le nostre procedure che ci sono già e sono ancora attive. Cioè, tu non vorrai separarti di, vero Oscar? No, io non mi separerò mai perché verrei prima passato per le armi. Asfaltato. Passato per le armi, quindi sai, i morti non si separano. Notiamo oltretutto che ovviamente stiamo parlando di un tema che impatta e attraversa l'evoluzione del costume italiano, no? Perché se andiamo a vedere quanto durano, cioè i famosi matrimoni sopravviventi, che è il termine statistico che a me già fa venire, perché mi considero quasi un cadavere con questa terminologia, però i matrimoni sopravviventi cambiano tantissimo, voi sapete, per classi di anno in cui sono stati contratti, tanto è vero che noi abbiamo praticamente una percentuale quadruplicata in soli 40 anni, tra il 72 e oggi, di minor sopravvivenza su 1000 casi, e questa cosa in realtà nelle spiegazioni, nei focus, io vi consiglio di leggere Convivere o sposarsi, e da leggere dopo che si è sposati, però, Convivere o sposarsi, che è un bellissimo libro del Mulino, scritto da Silvana Salvini e Daniele Vignoli, sono due demografi, ed è fatto con un focus group internazionale, fatto quindi intorno a un campione di cittadini italiani, con le stesse domande fatte in tanti altri paesi, ed è incredibile come si capisca che ogni singola scelta, convivere, sposarsi, separarsi, divorziare, eccetera, in realtà oramai dipende nella testa degli italiani solo o prevalentemente dai soldi e dai costi stimati, che sono molto molto molto molto pesanti. Sì, se posso dire una cosa però, Oscar, qui c'è un tema di nuovo sostituzione da parte dello Stato nella libera determinazione dei cittadini, no? Ancora una volta impone delle regole, impone dei costi, quando un principio liberale vorrebbe dire, dunque, se è un atto volontario, è big if come dicono gli americani, allora deve essere un atto volontario anche la separazione, salvo tutela dei più deboli. E qui invece il problema è che lo Stato di nuovo stabilisce i tempi minimi, perché senza quei tempi decide, e secondariamente stabilisce procedure che non hanno dal mio momento senso. Invece deve favorire il mercato degli affitti, il mercato dei servizi di welfare, il mercato della flessibilità organizzativa dentro la famiglia. Quello è un elemento per rendere liquido, diciamo, il mercato delle separazioni, e invece non fa nulla di questo genere qua. Sentiamo la seconda intervista. Divorzio breve, separazione breve, si può fare adesso anche assistita dagli avvocati senza poi un vaglio definitivo del giudice. Tu cosa ne pensi? Io sono d'accordo, perché ritengo che comunque sia nella separazione breve o nella separazione lunga come è stato fino adesso, le tempistiche sono sufficienti per decidere tutto e per mettersi d'accordo. Riguardo al fatto che ci possano essere dei problemi nel divorzio breve di mettersi d'accordo chi ha più soldi può pagare un avvocato meglio e quindi magari avere più possibilità di tirare più soldi dalla sua parte, ritengo che anche nelle separazioni normali fino adesso è la stessa cosa, perché uno basta che paga, continua mesi, va in giudiziale tutto quanto, e chi ci smena sono sempre chi ha pochi soldi alla fine. Quindi credo che la cosa più importante sia che il giudice metta principalmente il bambino davanti a queste cose, quindi spetta poi all'avvocato e al giudice, magari anche con dei vincoli all'avvocato che debba per forza andare a vedere lui se i soldi per il bambino sono sufficienti, quindi in base va, non so, farà delle indagini lui, e che sia obbligato a fare queste indagini sia per il padre che per la madre che si separano e che vogliono separarsi velocemente. Benissimo, andiamo a vedere quanto guadagnano e quanto spetta al bambino. Eccoci qui, tornati in studio. Allora, Francesca, uno dei tanti temi collegati all'esito di buone o cattive separazioni, divorzi, eccetera, inciso, la Francia, che è statalista, non è liberale, è statalista. In Francia, se si è d'accordo, come diceva Carlo Alberto, non ci sono i tempi, capite? Ci si separa e basta. Perché il principio dell'autodeterminazione, laddove lo Stato non ha di che dire, stia zitto, no? E invece deve interferire, perché è uno Stato moralista, non soltanto il liberale. Qui c'è il peso della presenza cattolica e vaticana, cioè, inutile, che sta in entrambi gli schieramenti da sempre. Però insomma, detto questo, una delle tante cose che pesano molto è il fatto che in caso di separazione il reddito non basta, si torna a casa da mamma. A questo proposito, sempre a proposito di costi stimati, costi percepiti, costi reali, noi abbiamo con noi l'amministratore delegato di Demoscopea, Stefano Carrin. Perché? Perché Demoscopea ha condotto proprio un'indagine molto ampia su campione, sono 2.700.000 in Italia i divorziati e separati, per capire proprio meglio la stima, la percezione di quali siano le conseguenze economiche, immobiliari delle cose che avvengono. Buongiorno, grazie di essere con noi, Carrin. Buongiorno a voi. Allora, ci spiega un po' in pillole la vostra indagine, che cosa mette in luce? Ma sì, un po' riallacciandomi a quanto avete discusso poco fa, spesso leggiamo sulle riviste patinate, no, di divorzi milionari con assegni cospicui da passare alle coniugi o magari spartizioni di grandi patrimoni immobiliari. Invece per noi, diciamo, cittadini italiani comuni mortali, il problema principale è la casa. Già. E quindi quando c'è una, soprattutto di questi tempi direi, quando c'è un divorzio, una separazione, quello che succede è intanto che devo trovare una nuova casa dove andare ad abitare. E quindi cosa faccio? Per esempio il 50% di chi si separa prova a fare la richiesta per un nuovo mutuo, ma metà poi se lo vede rifiutare. E quello che, quindi la soluzione diventa che quasi il 60% di chi si sono, di coloro che sono separati o divorziati, continuano a convivere con l'ex coniuge per l'anno successivo. Un quarto, come dicevate poco fa, deve andare a vivere in affitto, il 10% torna a casa dai genitori, e quindi la situazione, come risultato complessivo, è che il 40% delle persone che si separano, si divorziano, ritengono che la propria situazione economica sia sicuramente peggiorata. Allora io posso fare una domanda a questo punto all'attuariale, per così dire, Carlo Alberto, ma una percentuale così elevata di persone che a seguito delle scelte fatte di convivenza, matrimonio, peggiora così significativamente il proprio reddito, più del 40%, vabbè, le ragioni del cuore non sono quelle razionali, ma non è che siamo poco capaci in generale di fare i conti sulle conseguenze di quello che scegliamo? Perché con percentuali così elevate c'è un problema. Sì, c'è un problema che è determinato che il modello organizzativo della nostra società è ovviamente basato su diciamo il nucleo familiare, quindi siamo inefficienti sotto un minimo livello di scala, se posso dire, no? E secondariamente la fiscalità, ricordo ancora in Italia, premia il principio del nucleo familiare e invece che il reddito indipendente, e in generale poi manca la liquidità del mercato degli asset, quindi case, macchine, tutti gli strumenti fondamentali. Ci arriveremo, perché secondo me prima che lo Stato ci arriva un'organizzazione dei privati, quella che noi chiamiamo sharing economy, consentirà progressivamente di passare dalla proprietà all'accesso. Io continuo a credere che ci sia anche un problema di banale aritmetica o matematica finanziaria, in cui siamo poco bravi, cioè l'interesse composto resta il problema fondamentale del nostro paese, secondo me. Tu dici? Allora dobbiamo fare esperienza... facciamo piccole lezioni ai conti della belva, di fate i conti della vostra vita. Questo lo so, siccome il servizio pubblico, parentesi, vi rifilano una fregatura, cioè ci vogliono far pagare, il signor Renzi ha deciso di farci pagare il canone a tutti in bolletta elettrica, compresa per i PC, i tablet, i smartphone, e vi diranno che ve lo stanno abbassando, però questo è il modo con il quale l'abbassamento, cioè dai 113,50 agli 80 euro divisi per classe di reddito, ovviamente eccetera eccetera, in realtà le patrimoniali per classe di reddito mi fanno ridere, perché è una patrimoniale, non c'entra niente con il servizio pubblico o meno. Detto questo, questa tassa sul possesso di apparecchi ricettivi ve la mettono in bolletta elettrica. L'ha fatta la rivoluzione annunciata da Leopoldo 3 anni fa sua Rai? No, non l'ha fatta, era rivoluzione Rai, invece è canone Rai. Non mi piace questa cosa, scusate, chiusa questa cosa, non è servizio pubblico, è ladroneria. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta dagli studi Milano di Radio 24, sono le 10.19, primi con tutti i compari dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto, Mario, Francesca. Eccoci qua, allora iniziamo a farvi sentire tre brevissimi contributi dei nostri politici, quelli che animano il dibattito sull'euro, per capire di riassumere le diverse posizioni in campo. Come vedete, destra, sinistra, non c'è più una grande eccezione da questo punto di vista. Sentiamo Grillo, sentiamo Grillo sul referendum per uscire dall'euro. Sovranità monetaria, industriale, alimentare, sovranità economica, politica. Poi se uscire o non uscire dall'euro non è un problema, questo che ho detto io, che dobbiamo uscire. Voglio un referendum, voglio mettere dentro la nostra Costituzione degli strumenti in modo che i cittadini possano votare. Puoi fare un referendum nazionale se stare o non stare nell'euro, se no mi fai un piano B di come fermare il debito, mi dici come fermiamo 100 miliardi di interessi all'anno, devi inserire una legge dentro la Costituzione. La Costituzione non è perfetta, Calamandrei la chiamava l'imperfetta. E allora questa è la limpida e chiarissima proposta di Grillo per recuperare la sovranità monetaria, industriale, alimentare, eccetera, eccetera. Mancava con la calcistica, Oscar, qui dobbiamo reintrodurre la sovranità calcistica degli stranieri di Coppa. Non facciamo gli ironici, ecco. facciamo un po' di fatica, non fare gli ironici. Comunque, sentiamo Salvini invece. Se una moneta è sbagliata, cambi moneta, ci siamo entrati, possiamo uscire, non è Gesù Cristo l'euro, anzi. Quindi uscendo dall'euro è più facile pagare il mutuo, è più facile fare benzina, è più facile fare la spesa, perché se non lavori, non paghi niente. Vorrei dirvi che il rumore di fondo che si sentiva non ce l'abbiamo aggiunto noi come commento. Era la cravatta verde che scorreva intorno al collo. Era diciamo. Nell'origine. No, adesso non fare battute sulla prima pagina di oggi. Ma io trovo che i politici debbano esibirsi in tutta la loro nudità. Dico, se il re è nudo, non vedo perché non debba esserlo anche Salvini, non capisco. No, il problema è che il contribuente è nudo più che il re è nudo. Questa, quindi, insomma, il contribuente è in mutande tecnicamente. Ma invece le stanno levando anche quelle. Allora, e arriviamo poi, anche se di questo l'audio originale non c'è, perché la proposta Berlusconi l'ha lanciata sabato scorso in una affollatissima manifestazione qua a Milano, e Berlusconi torna a proporre una cosa pre-euro, cioè vuole sia la lira che l'euro. Non è entrato troppo bene nei particolari su come poi si fissa il cambio di qua di là, rigido, non rigido, oscillante, ma insomma sentiamo Berlusconi. Quindi una moneta propria consente anche attraverso il sistema eventuale delle svalutazioni competitive di aumentare le esportazioni. Questa non è una bestemmia, ci sarà scandalo di fronte alla ipotesi di una cosa di questo genere. Che cosa può succedere se si ritorna a una propria moneta da parte della Spagna, da parte dell'Italia, magari da parte della Grecia? Io non lo so con precisione. Può darsi che ci possa essere una perdita di ricchezza, non arrivo a capirlo. Allora, se andate sul sito di Radio 24, sulla nostra trasmissione, trovate, oltre ovviamente agli audio di queste tre proposte, noi vi abbiamo anche postato un'altra proposta che è uscita recentemente, è uscita su Micromega, è una proposta di Luciano Gallino, poi Bossone, Cattaneo, Garzini, Silo, Slabini, è una proposta che avanza un'altra idea, l'idea di iniziare a emettere i CCF, i certificati di credito fiscale, inizialmente per almeno 100 miliardi di euro l'anno, da incrementare naturalmente negli anni successivi fino a un massimo di 200 miliardi, e questi CCF verrebbero emessi gratuitamente, secondo i proponenti, a favore di lavoratori dipendenti, autonomi, delle imprese, dei disoccupati, naturalmente liberi di scambiare sul mercato secondario, e questa, secondo i proponenti, sarebbe la via di uscita dalla crisi italiana. Naturalmente gli effetti sul mercato del secondario di questo titolo emesso gratuitamente sugli altri per loro non esiste. Allora, queste quattro proposte sul tavolo, iniziamo con i compari dei conti della Belva a dire che cosa pensano liberamente, cari compari. Allora, io volevo commentare sui certificati di credito fiscale. In un approccio strettamente legalistico, no, di Unione Europea, se i CCF sono moneta, sono vietati, e pertanto la cosa finisce lì. Se i CCF sono espansione fiscale, sono vietati e pertanto la cosa finisce lì. È vero che argomentando così la trasmissione durerebbe molto poco, però altro da aggiungere non saprei. Berlusconi ha dimenticato, siccome mi ha colpito il fatto che Berlusconi ha detto bisogna stampare e mettere in circolazione una seconda moneta, e avevo commentato su Twitter dicendo ricordiamoci anche le borse false di Louis Vuitton, perché anche quello è una forma di sovranità, diciamo, ecco. Quindi mi pare di capire che tu sei liquidatore. No, io in un approccio legalistico la circolazione parallela non ha senso, perché come dicevi tu sul mercato secondario succederebbe l'apocalisse. Per quanto riguarda le altre proposte, probabilmente è meglio se uno ritiene di dover uscire, esca. Cioè è inutile mettere circolazioni parallele e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, per richiamarci alle proposte, se, no, ma volete essere puri, siatelo, allora siatelo. Salvini che siatelo. Dice usciamo e basta. Sì, perché il referendum di Grillo puramente non ha senso, perché se avesse una qualche caratterizzazione operativa la gente fuggirebbe nottetempo, molti farebbero un sacco di soldini. Io infatti sono abbastanza tifoso della soluzione di Grillo come opportunità di guadagno, diciamo, no? Perché sono un po' avido, però non ha senso una cosa di questo tipo. Se le cose van fatte nel corso di una notte, fallirebbero comunque, però alla fine sarebbe più coerente come impostazione. Io sinceramente penso che sia molto rischioso il concetto del referendum, anche perché io sono convinta che molte persone non capiscano e non sappiano esattamente quali sono le implicazioni di una decisione di questo genere, perché non abbiamo le competenze anche io per prima di fare una scelta di questo genere. Cioè probabilmente dovremmo essere molto preparati prima di poter votare a un referendum del genere. E io metto sul piatto un'altra proposta, l'economia di baratto. Andiamo prima ancora della lira, prima ancora dell'euro, facciamo solo baratto, iniziamo a barattare le cose. Vogliamo tornare a... Sì, guarda che sta andando molto bene, non tanto in Italia ma in altri paesi. Anche la banca del tempo, però voglio a barattare. Dire il baratto, nessuno ti impedisce di farlo anche nell'euro, cioè non c'entra molto rispetto all'unità valutaria, capisci? Un'altra cosa, l'economia del baratto c'è, ma ce ne parliamo a parte. Quanto a me, io ti dirò, io per esempio, io sono contrario ai limiti costituzionali dei referendum, che oggi non si possono fare in Costituzione per i trattati internazionali, per questioni fiscali, eccetera, eccetera. Secondo me la gente deve essere libera di scegliere. Alla Svizzera, gli svizzeri domenica scorsa avevano uno dei tre referendum. Referendum, volete voi alzare fino al 20% le riserve valutarie in oro? Intelligentemente loro hanno detto no, peraltro, ecco, per dirti. Quindi secondo me noi dobbiamo essere liberi di scegliere. Detto questo, la proposta di Berlusconi per me è un ritorno al passato, cioè ai tempi del sistema monetario europeo, e francamente non vedo perché. Capisco di più chi vuole uscire dall'euro, come dice Salvini e come dice Mario. Le conseguenze sono argentine, questo non c'è dubbio. Quindi ad andarci di mezzo, cari ascoltatori, siete voi. Più deboli siete nel potere d'acquisto, meno patrimonio avete, meno risparmio eccetera, più paghereste in quel caso. Naturalmente questo non ve lo dicono. Quanto poi al sogno che sia la svalutazione a ridare le ali all'Italia, nel breve, questa roba l'abbiamo praticata per decenni e ci ha portato in ginocchio. Questa è la mia opinione, però sono curioso di sapere come la pensa Carlo. Ma io penso che siete tutti un po' antichi, anche tu Mario, sinceramente siete un po' antichi, siete rimasti a una cultura monetaria diciamo del Novecento. La verità è che io sono più vicino a Francesca e sono più favorevole a studiare forme non di nuova moneta, perché cioè, l'euro è più che sufficiente, ma di nuovi sistemi di scambio, che è diverso. All'interno dell'euro si può studiare e forse la necessità aguzza l'ingegno degli italiani. Se vi ricordate, io e Francesca vi abbiamo fatto parlare di sharing economy, di condivisione di beni, e volevamo portarvi su questa riflessione, ovvero i meccanismi di scambio di un'economia moderna non necessariamente dipendono dalla moneta con sulla firma di Mario Draghi. Ve lo dico serenamente, perché abbiamo meccanismi per unire domande e offerte che possono fare a meno la moneta, e tra l'altro possono anche fare a meno in certi casi di un pezzo di fiscalità, che non è un incentivo al nero, giustamente un modello di baratto. E secondariamente l'elettronica ci fornisce modalità di moneta di scopo che, pur dentro al quadro dell'euro, aumenta la velocità di scambio, quindi a parità di base monetaria, che come sappiamo non controlliamo più perché la decide Draghi, noi possiamo farla girare più rapidamente, e questo consente per esempio di venire incontro a certe esigenze, perché la voce del popolo chiede di capire meglio questo senso della moneta. Non abbiamo ancora digerito l'unione monetaria. Posso dire una cosa a chi chiede di uscire dall'euro? Cari italiani, nell'euro non siamo mai entrati con la testa, non abbiamo mai capito le conseguenze, i vincoli e le necessità di unione monetaria, che non è una passeggiata di salute. E probabilmente è stata fatta in maniera prematura, con un'assenza di spiegazione, è stata fatta per volontà politica e non per maturazione del popolo. Oggi io penso che dobbiamo dare delle risposte, un po' di innovazione tecnologica. Attenti a non alludere al problema però, perché io sono per primo, se volete parliamo anche dei bitcoin, però però il problema di fondo è che gli italiani dopo 2, 3, 4 anni di crisi hanno introiettato, per via del bombardamento dei media, della spregiudicatezza politica dall'estrema destra all'estrema sinistra, che converge nel dire la colpa è degli altri, la colpa è dell'euro, la colpa è dei tedeschi, la colpa è della BCE, eccetera, hanno introiettato l'idea che l'euro è una specie di trattato di Versailles imposto all'Italia che non ha perso la guerra. Allora, questa roba, per me che faccio informazione rispetto alle opinioni di tutti, questa è una bufala da combattere, perché l'Italia ha 20 anni di colpe sulla sua bassa produttività, perché la politica da destra a sinistra non vuole concorrenza e produttività nell'80% del PIL che è quello non traded, perché il debito pubblico noi ne abbiamo fatto meno degli altri, come dice Marco Fortis, in questi anni di crisi, ma noi eravamo oltre il 100% quando la media europea era il 60%, perché le colpe sono fottutamente nostre, perché la politica deve vergognarsi invece di dire che la colpa è degli altri, perché dire ai vecchietti italiani, vecchietti, vi hanno inflitto l'euro che non capite perché è troppo complicato, significa insultare i vecchietti italiani a cui hai dato più pensioni a tanti di loro che forse rispetto a quello che era giusto, in nome della quale li neghi ai giovani dicendo che la colpa è dell'euro, che non c'entra un bene amato. Piffero. Ma fammi dire una cosa. Intanto che l'unione monetaria presuppone grande mobilità del lavoro e del capitale. Il capitale si muove, il lavoro no. E alcuni di voi chiedono, adesso leggo un po' di sms e poi ci sono le telefonate, ma non ho capito che cosa vuol dire gli effetti di questi certificati di credito fiscale sul mercato secondario. Lo spieghiamo, Mario, perché la gente non ha chiaro che se gli dai gratis questa roba qua rispetto ai titoli che esistono, che effetto ha? Questo è potere d'acquisto, no? Ed è anche deficit fiscale aggiuntivo potenziale, perché entra in vigore, cioè è utilizzabile per pagamento delle tasse dopo 2 anni nella proposta originaria. Questa è una cosa molto sottile, nel senso, se la gente crede che questa mossa sia propedeutica a introdurre una nuova moneta e a scalzare quella precedente, bisogna vedere come reagisce. Quindi se ritengono che l'euro continuerà a sopravvivere, questi CCF sul mercato secondario avranno un valore che si sbriciolerà e quindi ci potrebbero anche essere scene di panico e comunque butterebbero per strada il valore aggiuntivo, ripeto, di un potere d'acquisto fiscale che è creato dal nulla e come tale contro i trattati e anche contro il buon senso, pur se differito. E come la faccio semplice, ve le ricordate i mini assegni delle banche? Esatto, esattamente così, esattamente storicamente così. Gli assegnati dalla rivoluzione francese, esatto, perché i precedenti storici ci sono. Scusate, avete parlato di mercato secondario, una definizione in 10 secondi? È tutto quello dove si comprano beni attivi che sono già stati emessi e che già esistono. Un esempio? Beh, se tu compri titolo pubblico, esatto, bot, esatto. All'asta, se lo compri all'asta dallo Stato, quello è il mercato primario all'emissione. Esatto. Poi tu lo scambi sul mercato secondario. Sul mercato secondario, rispetto al prezzo di emissione, il prezzo dipende, non è mica lo stesso, sai? Sì. Varia sul mercato secondario a seconda del rendimento atteso e del merito di credito. Grazie, sì, sì. Chiarissimi. Conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Eccoci qua, è tornata in diretta la compagnia dei conti della Belva. Io mi conosco, insomma, Oscar Giannino e i nostri compari Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Francesca Del Rosso. Eccoci qua, io vi dirò immediatamente i temi della giornata, che trovate comunque sul sito, se andate sul sito di Radio 24, programmi Conti della Belva, c'è una bella schermata dove, oltre agli argomenti che adesso rapidissimamente vi riepilogo, trovate i documenti, parecchi documenti che noi richiameremo nel corso della trasmissione. Di cosa parliamo oggi? Molto semplice, innanzitutto cerchiamo di capire insieme a voi la sharing economy, quindi che cosa vuol dire home sharing, car sharing, bike sharing, anche però il lavoro condiviso e i finanziamenti condivisi. Esatto, è un principio per cui i cittadini si arrangiano in maniera organizzata. Come a noi piace il diritto di proprietà, vogliamo ottimizzarlo meglio, e non è solo per i ricchi, ma è soprattutto anche per chi deve trovare buone soluzioni avendo meno reddito, come capita in questi anni. Spiro della trasmissione. Suonate la carica! Allora, Allora, Francesca, iniziamo a capire un secondo meglio, richiamando anche quello che abbiamo messo sul sito, dei dati eccetera eccetera sulla sharing economy. Beh, innanzitutto io la trovo una genialata, la sharing economy, perché la trovo proprio un metodo anticrisi, parliamoci chiaro. In qualche modo qualcuno può guadagnare e qualcun altro può invece risparmiare. Nel mio caso, per esempio, io lo dico proprio ultimamente, sono stata in Canada, ho utilizzato Airbnb, che è un metodo per sfruttare l'appartamento di una persona che ti vuole ospitare, o anche una stanza che può condividere con te, e quindi invece di andare nel classico albergo tu puoi entrare nella casa, in questo caso di alcune famiglie canadesi che ti mettono a disposizione la loro stanza, e tu paghi chiaramente questa specie di subaffitto. Oltre a incontrare culture diverse, chiaramente vai a risparmiare parecchio. Noi abbiamo messo sul sito i dati di Airbnb sul mercato italiano e quelli mondiali, sono dati che cui riflettere. Sono dati... pazzeschi. Oltretutto il fenomeno è assolutamente in crescita anche in Italia, cosa che non sembra, ma invece è così. E vorrei anche ricordare che ci sono però grossi problemi anche dal punto di vista legislativo, perché chiaramente si va poi a parlare di subaffitto, ci sono licenze che potrebbero essere in qualche modo calpestate, e quindi ci sono normative locali e leggi fiscali che cambiano di paese in paese. I dati relativi al nostro mercato italiano, parliamo di 1 milione di viaggiatori che ha soggiornato in Italia con Airbnb dal 2008 al marzo 2014. In Italia ci sono 60.000 alloggi disponibili. Ogni notte in Italia alloggiano 12.000 persone con Airbnb, e il numero di persone che hanno alloggiato in Italia con Airbnb è aumentato del 280% rispetto all'anno precedente, quindi è un fenomeno esponenziale. Sentiamo la prima testimonianza che hai raccolto, Gabriella. Sì. Gabriella, come hai conosciuto Airbnb? Dovevo andare a New York, i costi degli alberghi erano molto alti, quindi ho cominciato a guardare il sito e ho trovato lì la possibilità di prendere in affitto una stanza. Dopodiché, quando sono tornata in Italia, ho pensato di avere una possibilità per arrotondare il mio stipendio e ho deciso di mettere su Airbnb anche una stanza del mio appartamento, e così è iniziata la mia avventura. Che tipo di clienti hai avuto? Molto varia, da ragazzi giovani che magari fanno un giro con zaino in spalla, a invece anche dei signori di una certa età che però magari preferiscono risparmiare e avere un contatto diretto. Che tipo di annuncio fai tu su internet e di che cifre stiamo parlando? Ho messo le indicazioni della mia casa, come arrivarci, che servizi posso offrire all'interno dell'appartamento. Abitando in una zona abbastanza centrale, chiedo 50 euro a notte. La cosa carina è che Airbnb manda gratuitamente un fotografo professionista che viene a fare le fotografie nell'appartamento, che quindi riesce anche a valorizzare l'appartamento stesso. E chiaramente appunto Airbnb poi può guadagnare una percentuale sulla cifra che pattuisce la persona che ospita, chiaramente anche lui guadagna. Allora, per tentare di approfondire, anche perché poi Carlo Alberto su questa materia ha convinzioni profonde e tenta anche per così di spalmarla nella comunità pubblica italiana, perché c'è un problema che riguarda ovviamente spingere verso regolazioni che siano più favorevoli a questo tipo di economia condivisa, no? Guarda, si tratta per lo Stato di prendere atto che con la crisi fiscale, cioè con l'impossibilità per lo Stato di pagare per servizi per tutti, deve lasciare spazio a nuove forme di welfare autogestito dall'iniziativa privata, primo punto. Secondo, deve smettere di pensare in conflitto di interessi, di avere il diritto monopolistico di distribuire licenze e diritti di fare impresa. Questo secondo me è l'elemento essenziale in una società che sa di non poter avere in futuro gli stessi livelli di servizi di prima. Noi abbiamo bisogno che lo Stato faccia due passi indietro e prenda atto che ci sono nuove forme di organizzazione del lavoro, del capitale, no? Degli asset, cioè delle risorse, una casa, un'automobile, no? BlaBlaCar, un tavolo della cucina, lo vediamo tra poco con le interviste che abbiamo fatto con i ragazzi di Gnammo, che trasformano ogni nonna in un ristoratore del venerdì sera, perché anche questo è un'arte di arrangiarsi italica che diventa però organizzazione moderna, tecnologica e trasparente. Questo è un po' il problema. Allora, abbiamo appunto due ospiti con cui approfondire un po' l'evoluzione, però partendo dalla questione della regolazione, perché come avete visto il caso Uber Taxi è evidente che c'è un problema di vecchia concezione di licenze, per di più con un mercato secondario a titolo oneroso su cui i tassisti impegnano cifre elevatissime. Naturalmente il pubblico ha fatto finta di non vedere questa roba qua, tranne il fatto che poi quando arriva Uber e l'offerta di sharing, lo Stato, anche a Milano, la punta più avanzata della rivoluzione italiana, in realtà, caro Alberto e Mario, fa finta di non sapere come fare, perché qui è avvenuta un'ordinanza del TAR luglio dell'anno scorso che dice: no signori, voi dovete rimettere mano alla cosa. L'assessore dice ai tassisti: avete ragione, cioè il sottinteso è Uber è illegale. Il ministro Lupi dice che Uber è illegale. Sta di fatto che poi i tassisti dicono: ci hanno detto che è illegale, e poi non fanno nulla, Carlo Alberto. Sì, però ecco, in trasmissione noi non dobbiamo entrare nel termine giuridico è illegale o meno. Qui dobbiamo stabilire dei principi, intanto informare. La sharing economy, cioè l'economia basata sulla condivisione di lavoro e capitale private, quindi un coordinamento distribuito, è una ottima cosa che noi tutti dobbiamo imparare. Non è né per ricchi né solo per metropolitani, ma è un modo intelligente per spendere meglio i nostri soldi, primo. Secondo, dobbiamo fare pressione perché le leggi vengano riviste per incorporare tutto questo. Esattamente. No? Questo è un po' piuttosto che dichiarare legale o illegale, che non tocca a noi. Cominciamo a parlare di questo con Notrotte, con l'avvocato Guido Scorza. Buongiorno avvocato. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, dal punto di vista della regolazione, che cosa, come si può fare per dare una mano al, tra virgolette, al regolatore a percepire quanta straordinaria innovatività c'è in questo tipo di impostazione dell'economia della condivisione? Bisognerebbe suggerirgli di non regolamentare, intanto, di non regolamentare troppo, nel senso che gli esperimenti in atto sul nel fenomeno. Avvocato, come avrà capito, la voce non era un granché, quindi nel frattempo che noi la richiamiamo, andiamo sul secondo ospite. In questo caso è Gianluca Ranno, appunto, che è amministratore delegato e cofondatore di Gnammo. Che cos'è Gnammo, Carlo Alberto? Ma Gnammo è un'idea di sharing economy che trasforma, come dicevo prima, ogni zia Pina in un ristoratore improvvisato, è accidentale. Fantastico, no? È fantastico, perché consente, per esempio, anche di rivitalizzare la tradizione culinaria degli italiani, delle nonne, delle mamme italiane, che hanno magari cose da dire ma non hanno un mercato. Si tratta di reinventarsi un mercato della tradizione, far guadagnare qualcuno da un lavoro magari appunto temporaneo, e far accedere a turisti, a diciamo a persone che vogliono mangiare, a storie straordinarie di persone che hanno da raccontarle. E questo è quello che ha fatto, secondo me, molto bene Gianluca con la sua, col suo progetto. Gianluca, sei in linea? Sono qua, buongiorno a tutti, buona mattina. Ci racconti un pochino che cos'è Gnammo e che cosa offre agli italiani e ai turisti? Beh, l'hai già detto benissimo tu. Allora, Gnammo è il primo social network italiano, la prima piattaforma che permette fondamentalmente di far creare alle persone eventi culinari. Come dicevi tu, la zia Pina, ma non solo la zia Pina, nel senso, noi abbiamo utenti molto giovani fino alla zia Pina, possono pubblicare un evento, quindi con un menu, un prezzo, un valore, il luogo in cui fanno l'evento, e poi lo pubblicano su Gnammo. A questo punto gli gnammer, cioè tutti quelli che vogliono mangiare, possono chiedere di partecipare. Questo in breve è l'offerta di Gnammo. E chi viene a fare, diciamo, il cliente in questi eventi culinari? Allora, il cliente, veramente, nel senso, non abbiamo un target tipo, meglio, nel senso, da ragazzi curiosi fino a persone più adulte, fondamentalmente sono le stesse persone che utilizzano Airbnb o BlaBlaCar, persone curiose, persone che vogliono vivere un'esperienza, come amiamo noi dire, immersiva, nel senso, diversa, relazionale. E come fanno a fidarsi della zia Pina o del giovane ristoratore improvvisato? C'è, allora, il classico problema della qualità, sai, e tutti ci dicono: ah, ma lo Stato garantisce la qualità. Siamo proprio sicuri che sia lo Stato a doverla garantire, e non, no, per esempio, le reviews, cioè le opinioni degli altri utenti, che sono garanzia abbondante e utile per, diciamo, informare i prossimi, dico bene? Assolutamente. Beh, io della zia Pina mi fiderei a prescindere. Comunque, a parte la zia Pina, c'è ovviamente un sistema di feedback che permette di, appunto, validare le persone. C'è un sistema di feedback sociali. Io che vado a mangiare la zia Pina dirò poi se la zia Pina è stata una brava cuoca, se era simpatico o meno, e così anche il cuoco potrà dare dei feedback bidirezionali verso la gnammer, la persona che va a mangiare. Quindi ognuno si costruisce, scusa, la sua. Quindi è l'offerta che giudica la domanda, e la domanda che giudica l'offerta, e questo meccanismo sociale consente di selezionare i migliori. Allora, dobbiamo chiudere, ragazzi. Sì, la compagnia non è tutta sulla posizione di Giannino, ci sono anche quelli più aperti verso lo Stato. Io no! Comunque, continuate con Radio 24. Fratelli d'Italia, l'Italia, le mesta, le tempi.